Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ad un recente incontro pubblico sul tema della violenza domestica è risultato che nelle violenze domestiche non esiste la responsabilità femminile, che le vittime sono solo le donne, nonostante sia stato evidenziato un incremento della violenza femminile. A nulla è valsa la dichiarazione sul sito ufficiale delle pari opportunità che precisava che la violenza non ha sesso. Di certo esistono la ritrosia e il silenzio maschile, ovvero l'incapacità di dichiarare di aver subito violenza. Per un uomo ammettere di essere vittima corrisponde intimamente al riconoscere il proprio fallimento. Non va dimenticato che la violenza è anche la sottrazione dei figli e tutto ciò che viene fatto a questo scopo dopo la separazione. Per non parlare poi delle sottrazioni internazionali di minori, che nel 70% dei casi avviene per mano femminile. Difficile dimostrare che essere uomini non può e non deve corrispondere solamente a una fatica o a un banale sborso di denaro. Difficile sostanziare che in Italia non esiste la cultura della ex famiglia, dei luoghi di recupero degli affetti, come ad esempio le famiglie allargate, e che non esiste un riconoscimento vero per una sfera relazionale padre e figli, e che questa è una prerogativa ad unico beneficio femminile. Diviene difficile poi indicare che la battaglia di tanti papà non è contro le donne, ma contro un sistema che li penalizza e con loro penalizza anche i loro figli. Si coltiva istituzionalmente la cultura della competizione uomo-donna per garantire che nulla cambi, mentre potrebbe essere ben più remunerativo insegnare il valore della bigenitorialità delle relazioni con i figli. E mentre la causa delle donne contro le violenze incassa denaro pubblico, e mentre le pari opportunità dispensano servizi a questo universo femminile così bisognoso di un accrescimento, i papà separati dai loro figli pagano tutto, fior di quattrini, in tasse per servizi che nemmeno li riguardano. Che fatica essere uomini, lo diceva anche una vecchia canzone. Roberto. Sono una libera professionista rovinata da una commercialista cocainomane. Per 3 anni nessuno si è accorto di nulla. Nel frattempo la signora sottraeva denaro ai suoi clienti, non registrava i documenti, falsificava i bilanci. Insomma, si era creata una sua realtà piena di bugie. Non è stato facile accorgersi che era cocainomane, perché chi sniffa non perde i denti come un eroinomane. E quando l'abbiamo capito, era ormai troppo tardi, per lei e per noi. E io, già scottata da questa esperienza, mi sentirei più tranquilla se affidassi la mia fiducia ad un politico che mi dimostra di essere sano di mente, piuttosto che a uno che tira di coca. Voi no? Alessandra. Il problema non è se il parlamentare sia in grado di esercitare le sue funzioni istituzionali dopo le strisce di coca, ma il fatto che comunque andrebbe contro qualcosa da lui stesso votato e voluto per gli italiani. Tutto qua. Se poi vogliamo chiederci se i parlamentari dovrebbero essere immuni da debolezze umane, allora veramente il discorso sarebbe troppo grande. E chi può dare una risposta? Gabriella Rapallo. È molto semplice. O il crocifisso sta appeso perché è un simbolo con un significato religioso che appartiene ad una determinata religione, oppure sta lì perché ha un significato culturale, che rimanda al fatto che la nostra storia, letteratura, filosofia, giurisprudenza, eccetera, sono state molto influenzate dal cristianesimo e dalla Chiesa. Nel primo caso, lo Stato semplicemente non è laico, perché sceglie di dare un messaggio religioso promuovendo una religione in particolare, posizione sostenibile, lecita o discutibile, ma non laica. Nel secondo caso, non si capisce perché l'ora di religione sia facoltativa, tenuta da preti o simili, e sostanzialmente sia più o meno un'ora di catechismo. Se vogliamo valorizzare il significato culturale del cristianesimo nelle scuole e non promuovere la fede cristiana di Stato, ci vogliono insegnanti nominati come gli altri, che insegnino su criteri professionali, storici e culturali. Invece qui in Italia si conserva sempre un'ambiguità totale sui rapporti con la Chiesa. Pietro. In molti criticano la sentenza della Corte europea che nega la presenza di simboli religiosi nella scuola della donna che aveva fatto ricorso. Non sono d'accordo con queste critiche. Io credo che, nonostante le famiglie della scuola interessata siano contrarie alla decisione della Corte europea, dovremmo valutare solo se la decisione sia giusta e non se assecondi la maggioranza. In questi casi non bisogna contare, ma pesare. Credo che siamo tutti d'accordo che lo Stato debba essere laico, cioè neutro, non schierato. Uno Stato quindi che deve considerare le religioni, ma anche le razze, il sesso, eccetera, come fatti personali o anche collettivi, ma comunque non rilevanti per le istituzioni pubbliche. Questo perché tutti i cittadini possano essere considerati dallo Stato, a prescindere dalle loro opinioni e convinzioni, solo come esseri umani. Noi critichiamo i paesi islamici perché usano il Corano come codice civile e codice penale, perché tutto in loro è religione e tutto è avvolto da una soffocante benda che toglie il respiro alla curiosità, alla innovazione, al dubbio, alla discussione, alla critica. Ebbene, imporre un qualunque simbolo religioso in un istituto pubblico significa, in misura proporzionale, aderire alla mentalità dell'Islam, che concordemente critichiamo. Il fatto è che la maggioranza cattolica della scuola e altri come loro non si rende conto che la decisione della Corte tutela indirettamente la libertà e la dignità di tutti, anche degli stessi scontenti. Giuseppe. La mia opinione sulla sentenza di Strasburgo è la seguente. Il problema non sta nel togliere il crocifisso, ma nell'offrire la possibilità di mettere simboli di altre religioni. Ma dato che ciò è ovviamente impossibile, se uno Stato laico vuole offrire pari opportunità, è corretto toglierlo. Luigi. Ho un figlio che frequenta la prima media ed ho scelto di non avvalermi dell'insegnamento della religione cattolica. Ho chiesto come mio diritto, in base all'attuale legge, l'insegnamento di una materia alternativa, ma mi è stato risposto che, con la situazione attuale della scuola, ciò non era possibile. Ho cercato di capire la situazione e, con buon senso, ho accettato di rinunciare. Il risultato è che mio figlio, assieme ad altri, quelli come me sono molti di più di quanto comunemente si pensi, nell'ora di religione viene sballottato in qualche altra classe, dove si fa una qualunque lezione a seconda della disponibilità degli insegnanti. Io pago le stesse tasse dei cattolici. Perché devo avere servizi minori? Questa non è discriminazione? Non sarebbe ora che nella scuola pubblica si rinunciasse all'insegnamento confessionale delle religioni? Luciano, provincia di Modena. Gentile direttore, il premio Nobel comunista Dario Fo sostiene che un bimbo ateo possa essere turbato dalla presenza di un Gesù in croce e condizionato nella sua formazione. Ci dimostri il premio Nobel quanti bambini sono rimasti turbati o condizionati da quando esiste la pubblica istruzione. Sono i bambini a chiedere di togliere Gesù o sono i genitori che, per le più svariate loro frustrazioni, se la prendono perfino con il Cristo? Dario Fo paragona il crocifisso alla svastica o alla falce e martello, vale a dire a simboli che devono essere rimossi dalla società. Ad essere turbato sono io nel dover ascoltare un premio Nobel che infanga quello che per me non è solo un pezzo di legno, ma un pilastro essenziale, anzi, il pilastro unico ed essenziale per il raggiungimento di una spiritualità intima ed interiore, l'unica via per raggiungere e mantenere la vera felicità. Non ne conosco altre. Se Dario Fo è ateo e se ne vanta, è un problema suo. Presto, dato che la sua vita sta arrivando al capolinea, capirà che esiste un Dio e che è ben più importante di una bandiera rossa alzata solo per spirito di contraddizione. Marco. Come mai la signora finlandese, che è ricorsa alla Corte europea perché, a suo dire, i suoi figli a scuola si sentivano osservati continuamente dai crocifissi, non si è fatta partecipe di analoga protesta con il proprio governo? La bandiera della Finlandia è infatti dominata da una croce. Poveri finlandesi, tutti osservati. Massimo. La Corte europea, ordinando all'Italia di togliere i crocifissi dalle aule, ha fatto la cosa giusta. Ho una figlia che tra qualche anno andrà a scuola. Io sono ateo e voglio darle un insegnamento laico. Infatti non l'ho battezzata, anche perché la ritengo una violenza nei confronti dei bambini. Voglio ricordare che il battesimo non è solo un po' d'acqua sulla testa, ma legalmente rappresenta un atto di appartenenza. Non ho niente contro i credenti, ma ritengo che la scelta di una religione debba essere consapevole e non imposta. Cosa dovrò dire a mia figlia quando un giorno mi chiederà cosa significhi l'immagine di quell'uomo inchiodato ad una croce nella sua aula? Dovrei spiegarle chi era Gesù, anche se storicamente non è provata la sua esistenza, perlomeno non come ne parlano i Vangeli canonici. E magari dovrei parlarle anche dei milioni di morti che ha causato la Chiesa, con le crociate, l'Inquisizione, eccetera. Ritengo che la religione dovrebbe limitarsi alla sfera personale, non alle istituzioni. La solidarietà, la compassione e l'amore per gli altri non sono un'esclusiva del credente. Davide, Pisa. Caro Davide, lei porta un nome importante. L'evangelista Matteo inizia il suo Vangelo illustrando la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ed è significativo che in Davide, il più famoso fra i re che hanno dato i natali al Messia, si intreccino la fedeltà a Dio con i peccati e i delitti. Ma perdoni la divagazione. Era solo per dire che in ciascuno di noi, in molti casi, perfino nel nostro nome, c'è qualcosa della tradizione cristiana. A lei, come a molti altri, danno fastidio i segni e i simboli della religione, che dovrebbe restare un fatto privato, chiuso nelle coscienze di ciascuno. Mi permetta, alla radice di questa posizione c'è una logica autoritaria e repressiva. Lei è e deve essere perfettamente libero di credere o di non credere. Ma con che diritto vuole impedire agli altri di testimoniare la propria fede? Nella sua concezione, lo Stato deve rispondere a criteri astratti e assoluti. Io penso invece che lo Stato debba essere espressione dei cittadini, debba essere innanzitutto e realmente democratico, rispettando la libertà di tutti, ma senza soffocare i diritti di ciascuno. Posso certamente comprendere che l'immagine del crocifisso possa infastidire perché, come si usa dire, è politicamente scorretta, ma è il fastidio della riflessione sull'uomo, della riflessione su dove può arrivare la violenza e l'ingiustizia. Una riflessione sull'uomo di ogni tempo, capace dei più grandi gesti di amore e delle più profonde violenze, come quelle delle crociate, dei campi di sterminio, dei gulag. È un uomo che è stato messo in croce e sono uomini coloro che l'hanno messo in croce. Il crocifisso è diventato un simbolo, il simbolo di una religione. Lei mi può dire, ognuno può fare quello che vuole a casa propria. Ebbene, io penso che lo Stato e quindi i luoghi pubblici debbano essere la casa di tutti. E mi sembra una contraddizione considerare un divieto di esporre un simbolo con il segno di libertà. Desidero esprimere il mio più fermo dissenso e la mia più decisa contestazione al disegno di legge sulla limitazione delle intercettazioni. Sono convinto che le intercettazioni siano molto utili alle indagini e se tramite loro si vengono a sapere cose sgradevoli sui nostri politici e sui burocrati che ci governano, beh, ne sono contento e felice. Anzi, pretendo di sapere se chi ci governa fa delle cose che non approvo. L'autorità per governare la possono avere tutti, ma sono l'autorevolezza e la coerenza che devono essere guadagnate sul campo, con le azioni di ogni giorno. In un momento come l'attuale, nel quale siamo chiamati a sacrifici terribili, voglio essere in grado di sapere, di giudicare e di ribellarmi alle ingiustizie, se sarà il caso. Ma l'affare e corruzione ci stanno distruggendo il presente e il futuro. Stanno impantanando il paese in una crisi che potrebbe rivelarsi irreversibile. Quindi voglio sapere e voglio continuare ad essere libero di esprimermi. Massimo, provincia di Arezzo. Di Pietro ha detto che Berlusconi si è messo in politica per emanare leggi che gli permettessero di sfuggire ai processi. Oltre che con l'italiano, non è che Di Pietro fa un po' di confusione anche con i fatti? Sta cambiando la causa con l'effetto. Non mi risulta che Berlusconi prima del 94 sia mai stato sottoposto ad alcuna inchiesta. Elena. Queste